falco e il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Hai mai seguito il volo di un falco o di un gabbiano? Traiettorie ardite nel vento, dentro al cielo lontano. Io sono così e ho voglia di volare, mentre dico che ti avrò, che ti avrò. Storia di uomini eccezionali e di donne eccezionali, storie di persone che conosciamo e storie che crediamo di conoscere. Questa volta andiamo nella epica delle grandi corse automobilistiche, poi capirete perché. Andiamo al di là dell'oceano, andiamo in Brasile. Quando si parla di Brasile vengono in mente due cose: il calcio e il carnevale. Per il calcio abbiamo Pelé, Zico, Socrates, Ronaldo, più recentemente Neymar. E poi ci sono le grandi immagini del carnevale di Rio. Ci sono le donne, i costumi, c'è una nazione intera che si ferma. Ma c'è anche un altro sport, oltre al calcio, cui il Brasile ha fornito grandi campioni. È l'automobilismo. Rubens Barrichello, Nelson Piquet, Felipe Massa, per dire solo alcuni nomi, prima di dire il più grande, che è Ayrton Senna. Ma poi c'è il protagonista della puntata di oggi, che si chiama Emerson Fittipaldi. Al giovane Emerson il destino ha scritto una storia particolare, un colpo d'ala che gli permette di volare nell'Olimpo della Formula 1. Il nostro viaggio inizia a San Paolo, una delle città in cui il conflitto sociale e le differenze di classe sono più marcate. Siamo in una famiglia della media borghesia. Ci sono due fratelli, Wilson e Emerson, che tutti chiamano Emmo. Sono entrambi appassionati di motori, il padre è giornalista ed è un commentatore sportivo di automobilismo. Emerson ha soli 15 anni, è già capace di montare e smontare qualsiasi motore, però si dedica alle moto. E poi segue il fratello maggiore che incomincia a farsi strada nel mondo del kart. Anche Emerson debutta nel kart, ottiene ottimi risultati e la sua strada sembra già scritta. Anni Emerson Fittipaldi vince il suo primo titolo di campione brasiliano. Siamo ancora in Formula V, è un campionato riservato ad auto da corsa con ruote scoperte, un po' l'anticamera dei grandi circuiti, ma se vuoi crescere devi uscire dal Brasile, altrimenti rimani uno qualunque. In Europa ci sono altre categorie di corse, la Formula Ford, la Formula 3 e a salire la Formula 2, in cui le auto diventano sempre più veloci e nervose. E lì per vincere bisogna essere veramente bravi, ed Emerson vince sempre più spesso. Però devi essere anche più attento, perché aumentano i rischi e i canoni di sicurezza degli anni 70 non sono un granché. Gli incidenti mortali sono molto frequenti. Emerson approda alla Formula 2, che è un'ottima vetrina se aspiri a correre in Formula 1 con i grandi campioni. Sentite in telecronaca una sua vittoria in Formula 2 a Interlagos, e qui si parla già di orgoglio nazionale. Corredori da Argentina, Inghilterra, Suecia, Francia, Italia e Australia rumano para partida. Velocità e assedio do tempo. Ronnie Peterson, Carlos Whiteman, Dean Schenken, Wilson Fittipaldi, Mike Beutler e o Mundial Graham Hill jogam na pista toda a sua destreza e arrojo. Grandes adversários do vencedor Emerson Fittipaldi. Interlagos. Espetáculo bonito de se ver. Principalmente quando Emerson marca mais uma vitória para a nossa bandeira. Colin Chapman é o mítico patrão del Team Lotus, que gareggia in entrambi i campionati. È anche un grande scopritore di talenti e decide di fare fare a Emerson il grande salto di qualità. Lo mette alla prova nella categoria regina. In quegli anni si possono schierare fino a 3 piloti per squadra. Emmo, il soprannome di Emerson, debutta a soli 23 anni. Per lui è l'inizio di un sogno. Ci ha messo poco più di un anno passare dalle gare di kart brasiliano alla Formula 1. E facciamo qualche nome degli altri piloti del campionato degli anni 70. Jackie Stewart, John Surtees, Mario Andretti, Clay Regazzoni, Jack Brabham, Jackie Hicks e il debuttante Ronnie Peterson. Fittipaldi è in buona compagnia. E poi c'è quel pilota austriaco, si chiama Jochen Rindt. È velocissimo, lo chiamano Dynamite o Dynamite per la potenza che riesce a tirare fuori dai motori delle auto che guida. Però è anche molto impulsivo. Fittipaldi se lo ritrova in squadra come prima guida e quell'anno, nel 70, Rindt vince e convince. Emerson è solo la terza guida, quindi deve partire sempre dalle retrovie. Però malgrado questo riesce a ottenere degli ottimi piazzamenti. Chapman, come sempre, dimostra di aver avuto buon fiuto. Poi accade l'imprevisto, è il 5 settembre 1970. Durante le prove libere del Gran Premio di Monza, Rindt perde il controllo. Si schianta sul guardrail vicino alla parabolica e muore sul colpo. Il team si ritira dalla gara, ma non è finita qui. John Miles, seconda guida del team, è traumatizzato dalla morte del compagno di squadra e annuncia il suo ritiro dalle corse. Emerson Fittipaldi diventa improvvisamente l'unico pilota disponibile del Team Lotus. Il Falco e il Gabbiano. Stiamo raccontando la storia di un ragazzo brasiliano che gradino dopo gradino diventa un grande pilota di Formula 1, Emerson Fittipaldi. In questo momento lui, da terza guida, dopo la morte di Rindt e la rinuncia alla abiura di Miles, diventa prima guida della Lotus. Viene buttato nella mischia. Da tutta quella spavalderia e incoscienza tipica dei giovani nasce un grande pilota. L'ambiente delle corse è un mondo pieno di gente ricca, di belle donne, di bella vita. Emerson non è lo stereotipo del bel ragazzo. Alcuni giornalisti lo hanno soprannominato Orato, il topo, per via della sua dentatura pronunciata. Ma siamo negli anni 70 e la moda di allora ti permette di avere i capelli un po' lunghi, i baffi come Clay Regazzoni, oppure un paio di lunghi basettoni come Fittipaldi. E poi Emo è simpatico, uno a cui piace scherzare, giocare con le donne, con la stampa. Sembra godersi ogni singolo attimo di questa sua avventura e ne trae una forza inaspettata che trasforma in grinta durante le gare. Ora improvvisamente si ritrova prima guida, sente crescere il peso della responsabilità. Sa anche che questa è la sua grande occasione per diventare qualcuno, ma la sua ironia lo salverà. Sentite cosa ne pensa proprio Fittipaldi in questa intervista rilasciata a Sky Sport. Io ero sicuro dopo Monza, quando John Miles, che era il secondo pilota Lotus, ha ritirato e Jochen non c'era più, che Colin prendeva un pilota con esperienza per andare a Watkins Glen. E dopo due settimane lui mi chiama e dice: Emerson, io voglio che tu essere il pilota numero uno della Lotus. Il pilota numero uno della Lotus era una molta responsabilità. E per me è stato molto contento, ma è andato a Watkins Glen con molta pressione, no? Pressione nel quarto Grand Prix, essere il pilota numero uno di una squadra come Lotus in quel momento, che vinceva con Jimmy Clark, con Graham Hill, con Jochen, con tutto questo mostro della Formula 1. Adesso il brasiliano arriva là, primo pilota della Lotus, è incredibile. Per me è stata molta fortuna e è stato molto piacere lavorare anche con Colin Chapman, perché lui era un genio di vettura, imparato molto molto con Colin Chapman. Chissà da chi ha imparato l'italiano, invece, questo ragazzo che dopo una brutta partenza a Watkins Glen nel Gran Premio degli Stati Uniti fa un miracolo, rimonta e vince la gara. E in questo modo Fittipaldi fa al suo compagno di squadra Rinta, alla sua memoria, il regalo più grande, perché la vittoria di Fittipaldi nel Gran Premio degli Stati Uniti permette a Rint di essere primo in classifica e di essere il vincitore del mondiale pur non essendo più in vita. Nella storia della Formula 1 questo non succederà mai più. Il 1971 è un anno di transizione in cui Emerson Fittipaldi non riesce a dare il meglio di sé, trovandosi alla guida di un'auto che gli ingegneri della Lotus non sono riusciti a perfezionare per renderla competitiva. Ma solo un anno dopo Fittipaldi inizia a inanellare una serie di vittorie, vivendo una stagione di continue sfide con la Tyrrell di Jackie Stewart. A Monza nel settembre del 72 Emerson, Emmo, va veloce come un fulmine e a soli 25 anni diventa il più giovane campione del mondo della storia della Formula 1. Le vittorie di Emerson Fittipaldi anche in patria nel suo Brasile fanno rinascere la passione per le corse, così come sempre accade altri piloti lo prendono a esempio e cercano di imitare le sue gesta. Tra di loro ci sono Carlos Pace, Nelson Piquet e soprattutto c'è un bambino che è destinato a diventare un mito, si chiama Ayrton Senna e proprio su Ayrton Senna c'è un episodio che lega i due piloti e che lo stesso Fittipaldi ci racconta in una intervista. Ayrton quando era ancora un ragazzino e vinceva le prime gare di kart in Brasile. Suo padre, Milton, mi avvicinò per chiedermi qualche consiglio per la carriera del figlio. Io gli dissi che avrebbe dovuto affidarsi a Ralph Firman, che era stato mio meccanico, aveva fondato la leggendaria scuderia Van Diemen, che correva in Formula Ford. Penso di avergli dato un buon consiglio, perché nell'81 Senna vinse il campionato inglese guidando una Van Diemen. Siamo nel 1973. Fittipaldi gareggia con la vettura contrassegnata dal numero 1, quella che compete al campione del mondo in carica. Però la stagione non decolla e Fittipaldi deve anche fare i conti con uno scomodo compagno di squadra, si chiama Ronnie Peterson. I rapporti tra i due sono molto tesi, lo scontro è inevitabile. Dopo una lenta e faticosa rimonta nei confronti di Jackie Stewart, che con la Tyrrell sta dominando il campionato, si arriva alla gara di Monza. E qui accade uno di quei fattacci che ogni tanto siamo abituati a vedere in Formula 1. Perché Peterson non lascia strada al suo compagno. Gli impedisce di vincere una gara che gli avrebbe consentito di accorciare le distanze con Jackie Stewart. Così quell'anno Fittipaldi arriverà solo secondo. Ma il rapporto con la Lotus e con Chapman resterà irrimediabilmente compromesso. E così l'anno dopo Fittipaldi approderà in McLaren. Il falco e il gabbiano. Stiamo raccontando la storia di Emerson Fittipaldi, Emu il ratto, il grande pilota brasiliano dai denti pronunciati e dalle grandi basette, che alla sua prima vittoria in Formula 1 riesce a consegnare il mondiale a Jochen Rindt, da poco scomparso, e che poi riesce a vincerlo lui un mondiale. Ma adesso lui ha già vinto un campionato del mondo, ma è in crisi, lascia la Lotus e approda in McLaren. E così anche il campionato del 1974 non inizia molto bene. Però Emerson è molto bravo a lavorare sullo sviluppo della macchina. Non è solo un grande pilota. Gara dopo gara la sua McLaren conquista punti e guadagna posizioni nella classifica mondiale. Così si arriva all'ultimo Gran Premio e la lotta è tra due grandi personaggi, Fittipaldi e Regazzoni, che corre su Ferrari. I due hanno gli stessi punti, quindi a vincere il mondiale sarà colui che riuscirà a fare meglio dell'altro. Non conta solo vincere, in questo caso l'impulso che muove ogni pilota a cercare di tagliare il traguardo per primo deve essere mediato dai calcoli di convenienza e di gestione della macchina. Non ho mai sentito tanto la pressione nella mia vita come la sentii la notte prima della gara mentre giacevo insonne nel letto della mia camera d'albergo. C'era una forte pressione su di me e la squadra. Era un ambiente critico. Gli sponsor avevano grandi aspettative. E certo, gli sponsor, perché la Formula 1 è anche questo, forse andrebbe detto soprattutto questo, è un circo in cui gira una quantità spropositata di soldi, con interessi economici che coinvolgono le più grandi case automobilistiche del mondo. Però la gara è un'altra cosa, il pilota doma la sua auto come un cavaliere fa col suo cavallo. L'importante è essere sempre un po' più veloce degli altri. Però abbiamo detto che Emo questa volta i calcoli li deve fare, perché deve trovare la strategia migliore per vincere. A Watkins Glen è appena partito il Gran Premio. Fittipaldi e Regazzoni sono fianco a fianco. Quando la bandiera verde sventolò, Clay partì meglio di me e alla curva 1, una piega verso destra a 90 gradi, mi era davanti. Ma nella lunga salita che portava alla curva numero 2, riuscii a prendere la sua scia e sentii quella meravigliosa sensazione che tutti i piloti conoscono così bene. Una forza che trascinò la mia macchina in avanti. C'è un lungo rettilineo che termina con una curva a destra. Fittipaldi e Regazzoni sono fianco a fianco, però Emerson si ricorda che nell'ambiente la Ferrari di Regazzoni viene definita la vettura più larga della Formula 1. Questo per l'abitudine del ferrarista di chiudere la strada agli avversari che non trovano uno spazio per effettuare un sorpasso. Però Fittipaldi è convinto di una cosa. Lui sa che se riuscirà a stare davanti a Clay alla fine di quella curva, il mondiale sarà suo. Regazzoni spinge la McLaren di Fittipaldi verso il bordo e le ruote del brasiliano sono sull'erba, ma alla fine lo svizzero deve arrendersi alla tenacia di Emo, alza il piede e gli lascia la posizione. A Watkins Glen Fittipaldi arriva quarto, però Regazzoni è solo undicesimo. Così Emerson vince il suo secondo mondiale, che è il primo nella storia della McLaren. L'anno successivo Fittipaldi termina il campionato al secondo posto, ma in famiglia c'è una novità. Il fratello Wilson, sfruttando la popolarità di Emerson, è riuscito a creare un team interamente finanziato dallo zuccherificio nazionale brasiliano, la Cooper Sugar. Un team brasiliano, un pilota brasiliano. Però Wilson non è all'altezza e ne diventa soltanto il team manager. E allora Emerson si convince che deve dare una mano a suo fratello. Non può abbandonarlo nel mondo della Formula 1 senza un pilota di esperienza. E così lascia la McLaren. Al suo posto arriva il bello e maledetto James Hunt. Pronto? Ciao James, sono Peter. Qualcosa si muove alla McLaren. Tu hai sentito niente? No, niente, perché? Sembra che Emerson sia fuori. Li ha lasciati nella merda. Cristo, portami lì dentro, Pete. Inventati qualcosa, ma portami in quella stanza. Vengo subito al punto. La nostra stimatissima prima guida, Fitti Merda Paldi, ci ha scaricati per un altro team all'ultimo minuto. La Cooper Merda Suca. E ci serve un rimpiazzo ora. Immediata merdamente. Per fortuna, però, si sono già alzate un po' di mani. Brava gente. Jackie Hicks. Sono più veloce di Jackie. Ma lui è costante. Affidabile. Una persona matura. Certo, e si infilerà in quello spazio quando nessuno avrà il coraggio. Intanto Emerson è alle prese con anni di sperimentazione di bassa classifica. Non è facile partire con un nuovo team nel mondo della Formula 1. Si fatica anche per trovare finanziamenti sufficienti a iscriversi a tutte le gare. Arturo Merzario, amico di Fittipaldi, ha guidato la Cooper Sucar a Monza. La macchina era un cancello, scuso l'espressione. Allora noi ci esprimiamo dicendo così quando una macchina era un tank, un carro armato, un cancello, ma non per offendere nessuno, era il nostro modo di esternare i problemi, capito, che esistevano, ecco. E così facendo ci si metteva d'accordo su quello che poteva essere poi la strategia per ricavarne il meglio di quello che avevi a disposizione. Qualche piccolo passo in avanti: solo nell'80 la macchina si dimostra competitiva all'inizio della stagione, però è solo un fuoco di paglia. E così alla fine dell'anno Fittipaldi si ritira dalle corse, continua a lavorare come team manager della sua squadra, ma non riesce a portare a casa buoni risultati. Non si può vincere sempre. Però un pilota non riesce a stare troppo tempo senza guidare, il richiamo è troppo forte. Così come era accaduto qualche anno prima, quando Emerson aveva lasciato il Brasile per l'Europa, adesso è il momento di andare via di nuovo. Si torna negli Stati Uniti, dove lo aspetta la Formula Kart, che poi diventerà l'attuale Formula Indy. 12 anni di successi, dal 1984 al 1996 nella Formula Kart, dove Fittipaldi diventa un idolo. Tutte le emozioni per voi qui alla manchete. Vamos ver essa passagem, a differenza do Emerson. Vamos ver essa passagem. Passa Emerson Fittipaldi, passa Raul Moesel. Vai vencer pela segunda vez. Ele que já ganhou em 1989. Ele que teve problemas em um pit stop. Vibra, vibra, vibra. Vitória de Emerson Fittipaldi em Indianápolis. La seconda vez de Emerson Fittipaldi, come dicono loro. In questo modo lui vince due volte la 500 miglia di Indianapolis e diventa uno dei campioni più titolati dell'automobilismo, al pari di un altro grande, Manuel Fangio. Mi ricordo che nel 92, quando correvo con successo la Formula Indy, parlai con Ayrton e lo convinsi a provare una macchina sul circuito dell'Arizona. Senna non era contento della sua situazione in McLaren, avrebbe potuto andare in Williams, ma Prost si oppose e quindi cercai di convincerlo a venire a correre in America con me. Negli Stati Uniti correvano già altri campioni della Formula 1. Oltre a Fittipaldi e a Mario Andretti c'erano anche Nigel Mansell, Nelson Piquet. C'era la possibilità di avere grandi successi in un ambiente meno difficile della Formula 1. Quel giorno Senna fa il test drive, sfidando il suo mentore Fittipaldi a colpi di giri veloci. Non si è mai saputo con certezza se Senna volesse veramente trasferirsi in America, oppure se abbia usato questo test per contrattare meglio il rinnovo con la McLaren. Purtroppo nel 94 Senna muore a Imola e nel mondo della Formula 1 si spegne una stella importante. Così l'idea di vedere una Formula Indy con Fittipaldi, Piquet e Senna che corrono uno contro l'altro è rimasto un sogno per molti brasiliani. E ho capito che Dio mi aveva dato il potere di far tornare indietro il mondo, rimbalzando nella curva insieme a me. Mi ha detto chiudi gli occhi e riposa. E io ho chiuso gli occhi. Siamo quasi alla fine del nostro percorso, che ci ha portato a raccontare un incredibile colpo d'ala di un pilota che ha saputo cogliere l'occasione della sua vita, come ci dice Arturo Merzario. Emerson Fittipaldi è un cavaliere del rischio della vecchia generazione che ha meritato di ottenere quei risultati laddove alcuni non sono riusciti a ottenere. Perché dopo, sai, essere al posto giusto, al momento giusto è vero, ma ci sono state anche tante persone al posto giusto, al momento giusto, ma in realtà non hanno ottenuto quei risultati che avrebbero dovuto ottenere con tutto a posto, capito? Uno dei grandi misuratori di successo globale è Topolino. Se Topolino ti fa una vignetta, vuol dire che ce l'hai veramente fatta. Così nel 1984 esce in edicola Una storia in due puntate, Zio Paperone e l'avventura in Formula 1. Ci sono le Ferrari e le Plotus, c'è Alan Cross e Nicky Bagnacauda. Ma la cosa più divertente è vedere che Rocker Duke, l'acerrimo nemico di Paperone, ha una sua scuderia, la Rocker Turbo, e il pilota Emerson Fittipaldi, naturalmente. Con questo direi che la possiamo chiudere così per oggi. Il falco e il gabbiano. Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Dodo Chipinti.